metallo più grande per questo qui, vedrai che sono un accordatore, è già pronto, mi manca solo di mettere gli strumenti, ma gli strumenti non li vuoi buliacchi, non per busti, no. Bisogna buscare un'altra scatola e da quello ti posso vedere chi c'è un accogliatore. Devo buscare una di quelli dove mettevano i trasmettitori FM, di quelli a rack, di quelle lì bisogna prendere. E ci schiappo tutto dentro. Se ce lo schiappo ti fai male. Ho sentito, Natalino, ti ho sentito. Natalino, ti ho sentito, ti ho regalato un nome. Ma se non sono io in USB, no, cosa fai? Ho sentito. Ok, già te lo dico io come funziona, va. Un minuto c'ho di tempo, o qualche giorno ti faccio salire qui e così almeno ti faccio spaventare. Ti faccio scattare. No, ti faccio solo spaventare, boh. Non lo so io. Va, qualche... Ti do tutta la potenza, potresti arrivare, che ne so. Dalla stessa potresti arrivare addirittura anche a fondo scala. Chiara. Ma se non la so usare non riesce a centrarci e noi non lo capiamo, capito? Bisogna spiegarglielo bene come funziona. Esatto. Chi c'è un galloper? Ma c'entra in banda laterale, chi tu lo giri e devi chiarire la persona. Certamente non lo senti come lo senti in AM, però lo senti di questa maniera, capito? No, come in AM lo senti, dai, mi guarda. Nel 45 abbiamo collegato, perché quest'estate abbiamo collegato anche tutta l'Italia, quasi, dai. Già bello, già bello. Tata lì. Allora, quello che ci ha ascoltato prima non c'è più, eh. E lo hai detto pure 120, 139 euro adesso. Viene a costare. Scappa. Quindi non c'è più quello, quello che stavi dicendo tu. C'è lo stesso, ma non è più scontato. Ehi, quello lì però non è più scontato, così è. E capa, no, non è più. Adesso è ritornato a prezzo pieno, 139. Capa, capa. Cosa ti volevo dire? La base non ce n'è. La base ce n'è uno solo. E qual è? Me lo puoi dire per... Aspetta che guardi con noi. Chiara che è, beh. Anche esaurito è la base. C'era lui del UB578 che è esaurito. 190 euro costava la base. E basta guardare in altre aziende a vedere se ne hanno. La Marcucci che forse già ce l'ha. E adesso guardo un po'. Più tardi mi metto a vedere se trovo qualche cosa. Anche l'antenna ne devo comprare multibanda. L'attacco sotto la mandorla. Così posso auscultare. Non so se ti può interessare, c'è l'ITEC R109, 90 euro. ITEC R109? Mi sembra che ce l'ho il catalogo della ITEC qua, da qualche parte. Esatto, l'ITEC R109, 90 euro. Se aspetti un attimino, guardo la scheda e ti cosa ti vuole cosa fa. Aspetta, ti dico com'è. Oh, allora, questo qua costa 139 euro. 450 MHz a 1300 ohm 995 MHz. E ho capito, ed è troppo in alto. Vabbè, là, vediamo questo, a vedere che figuria. E qualcuno me lo devo buscare. Ma se è andato a base era meglio. Questo qua c'ha addirittura 1300 memorie. Avanti da 200 memorie automatico, 50 memorie di scansione programmabile, 50 memorie in dual web, funzione scansione, ricerca, espressione regolabile, tastiera numerica, cambio modalità AM, NFM, FM, VHF, la conversione completa, pacco batteria di ore di inizio da 3,7 volt, 1900 mAh, antenna auricolare, carica batteria, cliente, manuale in italiano. Ciao Pierpaolo e una buona serata a tutta la ruota, cambio da Giuseppe. Ciao, ma buonasera Giuseppe, mi sentito da questa parte. Pierpaolo Bravo, in compagnia di Natalino Alfa 1, Antonio Pompo e Falchetto, avanti per chi vuoi. Per tutta la compagnia cambio, sono qui che ascolto con particolare attenzione perché per me sono delle novità assolute, cosa posso dire, la vostra conversazione cambio. Kappa si parlava di quello che parlavo l'altro giorno degli scavi per l'ascolto, eh. Ottimo. Ciao Giuseppe, ciao Gianni, ben sentito anche a te, cambio. Allora, dice, è terminato, abbiamo. Ma per oggi sì Gianni, adesso vediamo se lunedì, tempo permettendo, riusciamo, tempo permettendo e neve, riusciamo a completare il giro, cambio. Ecco, poi quando pare dice che metterà pioggia, io attualmente ho tutto pioggia. Ma speriamo bene Gianni. Senti, ti volevo chiedere, io ho un rumore di sottofondo, sembra che quando nessuno parla stia passando un motoscafo qui a casa. È probabile che sia qualche problema, che ne so, del tempo, cambio. Ma te lo faceva già la giorno scorso. Ma no, l'ultima volta che li siamo sentiti qui, quando c'era anche Gigi Vulcano, come sottofondo era abbastanza leggero, cambio. Quelle pentole che ci avvicinano sono masivie. Vabbè, ma magari è una cosa provvisoria, una cosa passeggera. Magari anche qualche rumore che c'è nell'aria, cosa. Beh, sono tutte quante cose che ci sono nell'aria, inquinamento atmosferico, a parte delle radio, dei telefonini, eccetera, eccetera. Kappa Gianni, avanti Pierpaolo, cambio. Ehi, Kappa, ma ti sei presentato proprio adesso oppure tutto il giorno? No Pierpa, diciamo adesso, perché io ho acceso l'apparecchio in questo momento, però il rumore di sottofondo lo fa quando, che ne so, tu stai parlando a me e quando mi parli la ricezione è perfetta, quando lasci, che ne so, il pulsante del microfono è come che faccio motoscafo qui dentro casa, cambio. Come non ha fatto un motoscafo, cioè che rumore, fammi capire che tipo di rumore. Diciamo è come un rumore, che ne so, hai presente tu una cascata che senti in lontananza, sembra come dell'acqua che stia cadendo a, che ne so, tipo una cascata, cambio. Attacca. Cosa hai attaccato? La spina del coso, come si chiama, dell'alimentatore, a qualche preso dove c'è televisione funzione. Se è positivo Pierpa, ho la televisione accesa qui in cucina, cambio. Cambia la posizione della spina, la televisione non fanno quello lì. Kappa, vedo un pochino di sistemare la televisione, una fucilata ed è subito spenta, cambio. No, guarda, avevo molto semplicemente, prendi la spina, sembra una cazzata, però prendi la spina e la capovolgi, la rigiri, no? Inverti, fai l'inversione della spina e non lo fa più. Kappa Pierpa, spengo e sono di nuovo da voi. No, se no è molto la televisione, che cambi, la metti una prunga, la metti su un'altra spina, ma non c'è niente, perché la televisione Pierpaolo, grazie. Molte volte anche sono i televisori quelli che creano quel QRM. Ma carino! Comunque, registro, non so cosa ti può interessare. Che cosa? La base, bello, bello, grande, c'è stato davvero a 3.999 e 999 MHz. Fa tutto, proprio tutto, c'è USB, LSB, c'è un sacco di cose, 1000 memorie programmate, scansione, memoria parti, non so se interessa, vuoi sapere cosa? Dimmi cosa è Gattuguccia? No, questo è, pratica, è un Incom 3070XR. Il suo costo è 8209 euro. Quando mi hai detto Incom mi hai già vinto un tuffo al cuore, senza di me presa che lo sappia via. Non mi attacca. Sono i migliori, non c'è la fare. Che poi io ce l'ho il ricevitore qua, mio ce l'ho. Ehi va, una tarifa, Ico, cazzo mi ha già detto tutto il caso, non gli hai detto io. Sei qua! Quasi non mi viene io, sentirò quasi, dai. Sentirò quasi, infatti. Io ce l'ho, mi sono birra, io ce l'ho il mio ricevitore qua. Caso dico, io ho preso uno schermo e c'è l'allenatore di spettro. E qua. Preti sul 21, cambio. No. 10 pollici. 10 pollici. E qua, con lui. E a me sono quelli che piacciono. Lui deve fare un leasing in Galvina a comprare a te. Ah, ma... ma lui... A me per ascoltare... qualche cosa, poi... andare. Se vuoi Luca Superao, me l'aveva pigliato. Sì, se avevi vinto a Luca Superao, tu mi avevi regalato tutto il suo livello che mi avevi pigliato tutto lui. Ma che razza è l'antenna revoca? Non ce ne vuole una, no? Cazzo! Ce ne vogliono parecchie le antenne. Col commutatore, quando cambi banda, cambi anche antenna. Si piglia tutto. Allora, posteriore di qua c'ha... c'ha tre connessioni di antenna. Tre cose di antenna c'hai, figurati. Figurati. C'era una multibanda per le bande alte, uno di quei discuni che va davvero a 1300, poi di vari dipoli per prendere le bande HF. Ho detto che questo c'ha tutto di più, ma di che sono per gente appassionata, ecco, l'ICOM ICR 7000 ce l'avevo, me lo sono venduto, le mani mi dovevo tagliare. Male, non lo so ancora si tiene. No, ma a me no, sinceramente non mi interessano neanche, i buruidi la mano, erano la pura 2,20. Alimentazione 220. Ma che c'era lui era pazzesco, era bello veramente. E qua, me ne gioco di tutto. Ma se lo trovo me lo ricompro l'ICR 7000. Quello già è di lusso. Tutti quelli lì sono così, glielo credo. La mappa poco didattica. Già, tra tariccio ma ci dovuto pigliare un libro. Tra l'altro un libro non ha tesi, e quello non lo so contattare bene manco, qui tu meno libro. E c'era anche lo schermo, eccetera, eccetera. Ma dai, che dove costava 23.000 euro? No, quell'altro, quello che costava 500. C'era lo schermo LCD dove ti segnava tutte le frequenze, su cui la tua pazzia. Ah, ecco, quello... Ecco, 500 euro, sì, niente, via. E quello era bello, eh. Io lo so. Lo so. Dove portiamo la barca ai soldi? Ma io non so, senz'altro c'è la gente appassionata che lo prende, non lo mette in dubbio, se ricostruisco vuol dire che ripeto, però queste cose così di 8.000, 9.000 euro, secondo me è uno spreco. C'è gente che ci prende la radio e cosa così per poter trasmettere, figurati. Sono radio ICOM che fanno una barca di soldi. Sono radio questi passano in tutto. E infatti, e io conosco gente che c'ha radio che guarda, sono spaventevoli. Anche quello che non prenderesti mai con un altro ricevitore. Tutto va alla stessa, non mai sicura. Ci vogliono der Geld, come si dice in tedesco, vogliono di là. Ma hai fatto? Non ho fatto ancora. Avanti Gianni. Già, stavo ascoltando, mentre ascoltavo andavo a vedere. E cosa hai visto? Tutto gatto. Adesso mi sono fatto a mia moglie, il computer per trattarli, che faccio oggi che mi guardi di male. Gabba, gabba. Avanti di nuovo Giuseppe, oppure sono te Giuseppe, avanti perfetto. Sì Pierpaolo, sono di nuovo qui e niente, ho provato a girare la spina come mi hai detto tu, però niente, il rumore di sottofondo c'è sempre a spina, rilasciate il microfono, cambio. L'hai cambiato la parte, fa lo stesso. Sì Pierpaolo, però quando voi parlate io vi sento chiaramente, il rumore sparisce, scompare, si presenta solo quando rilasciate il pulsante del microfono, cambio. Sì, lo smettila quando ti sale, se non parla nessuno. 5 di Santiago e quasi 3 di radio, cambio. 5 di... Non è che stai usando qualche ciambacca di quelle con la cosa, con l'interruttore? No? Dimmi. L'antenna, dove l'hai piazzata? Sopra l'antenna del televisore? Negativo, l'antenna è in un palo a sé, in un palo telescopico e zingato, cambio. Come apri l'antenna vicino che magari quando accendono tutti i televisori ti crea il QRM, sarà per quello, sarà, perché pure io ce l'ho alto stasera, cioè io ogni sera ce l'ho alto, poi spengo tutti i televisori e allora comincio a sentire bene, ce l'ho basso. Ok, la cosa positiva è che quando parlate vi sento forte e chiaro, cambio. Hai sentito Gianni la cosa che ti ha detto? Vai Gianni! Ti ho detto, se avevi qualche ciabatta con l'interruttore, perché a volte quelle ciabatte con l'interruttore provocano questi rumori. Negativo Gianni, presa direttamente dal filo della presa elettrica direttamente al trasformatore, cambio. Ma cosa, stai usando il Midland? Il 48 cambio. E c'è l'RFG, se vuoi diminuire i rumori basta per appena abbassare l'RFG, sentirai i segnali un po' più bassi, però e riesci a eliminare. Tu usi il filtro, metti la posizione filtro dove c'è scritto filtro sopra e abbassa quello lì, vediamo un pochino se riesci a attenuare un po'. Allora Gianni, io qui ho la manopola del volume e sotto l'altra dove c'è il volume dell'altoparlante l'ho ruotata quasi tutta a sinistra per eliminare i rumori di fondo, cambio. Non devi toccare il volume, devi toccare l'RFG. Lo abbassi di un po' e vedi un po'. E poi sopra ci sono dei filtri, non so se siano inseriti. Guarda, se c'è inserito il filtro. I filtri, io qui ho un pulsantino rosso con NK e questi me li allevia parecchio il rumore di sottofondo, cambio Gianni. Con un pulsantino rosso? Ma che apparato c'hai? Allora, l'Alan 48 Excel Multi, cambio. Ah, pensavo che avessi 48 normale io. Comunque l'RFG ci dovrebbe essere lo stesso, controlla. Sì, l'ho già rotata la manopolina Gianni, ha già, diciamo che adesso è accettabile il rumore, cambio. Allora va bene così. Se ha dei filtri, non me lo ricordo come si è fatto quello lì, ma ci dovrebbe avere anche il filtro, anche quello lì. Sì, qualche filtro ce l'ha, però devo dirti la verità, in mezzo alla mia ignoranza, leggendo le istruzioni di questo benedetto CV, ancora uno sono riuscito a trovarlo, gli altri poi parla anche di filtri per disturbi, di cose esterni, però sinceramente non ho trovato niente. Comunque, ripeto, la cosa positiva è che quando parlate mi sento forte e chiaro. Cambio Gianni. Guarda, tu non puoi chiudere anche di più, tanto noi te lo apriamo, guarda. Te lo apriamo nelle fighe, prova a abbassarlo un po' di più. Oh Gianni, avete parlato in due sopra e non ho copiato niente, cambio. Aspetta, i filtri sono NB e ANL, guarda se c'è ANL e NB, schiaccia quelli che sono quelli filtri. Allora, un attimino che controllo, eh. E uno si chiama NB e l'altro ANL. Ma sulle 48 multi? Su tutti ci sono quei filtri lì, guarda un po'. C'è il noise blanker che si chiama NB e l'ANL per l'attenuazione dei disturbi. Allora, i tasti che io sotto sono, il tasto funzione va bene, questo è per memorizzare i canali, poi EMG, DW, scan, AMFM, look e poi N e puntato K in rosso, che questo so di certo che è un filtro perché lo sto già usando, cambio. NB non c'è, no? È negativo. Vabbè, sarà quello. Prova un po' quello che hai detto tu, il filtro lì, magari l'hai messo alla rovescia e c'hai i disturbi. Ok, adesso provo. Allora, adesso che l'ho schiacciato sul display del CV è venuto fuori ESP. ESP, sono ancora troppo acero, è diverso, ma fa lì. E vabbè, anche se è venuto lì, cosa ti volevo dire, se è venuto quello lì, i rumori te li attenua. Sì, li attenuo abbastanza, cambio. E allora non me ne inserite, va. Ok, dai, comunque adesso è accettabile come rumore di sottofondo. Volevo chiedervi solo una cosa. Potete darmi l'uscita di stasera, cambio? Come l'uscita di stasera? Come sto uscendo stasera? Ah, fai un passaggio. L'uscita di stasera, cambio. Allora, sta arrivando Santiago 7 e Radio 5. Io mi trovo alla periferia di Sassari, dai, nei pressi di Monte Bianchino, quindi già siamo un po' lontanucci. Già io ti ascolto bene qua. Io ti ascolto benissimo, cambio. Ok, va bene, avanti già. Qua siamo 9:15, Giuseppe. Grazie Gianni, ho copiato, grazie. Prego. di attenti 100 molto basso, cambio. Ti apri le refrighine, ma se non senti di più Giuseppe, a Falchetto. Perché ti attendo anche il segnale, perché il rumore quello lì, capito? Non ho copiato bene Gianni, chiedo scusa, mi puoi ripetere per favore? Le refrighine, oltre a attenuarti i rumori, ti attengo anche il segnale, quindi se uno sta scendendo basso, lo senti più basso ancora. Quindi riapro per ascoltare a Falchetto e poi per ascoltare a me lo richiudi. Ok, già fatto Gianni. Prova Falchetto. Non me la ascolti un po' tutte. Adesso se mi tutti Otto di vediamo un po', no, un 5 di radio e un 8 di Santiago, cambio. Mio? Sì. E vedi che me lo sono mettato. Bene così, dai, riprendete e fate girare la tua. Santiago del radio. Allora, in questo momento sei uscito, diciamo, a 8, cambio. 8 di Santiago, del radio. E di radio stai uscendo quasi a 5, cambio. La radio si dà orecchio, Giuseppe. Non ho copiato, cambio. La radio si dà orecchio, guarda qui su per 5, per cazzotte, capito? E positivo, cambio. Segnale si controlla nello smitter. Sì, adesso l'ho messo al massimo, però come voce la sento, ti sento lontano e molto cupo, cambio. A me mi senti lontano e cupo. E tu sei Pierpaolo. Capo, a me come mi senti? No, c'è una relazione, come? Io Pierpaolo, senti, ti copio bene, ha un Santiago 9 e una radio di 5, cambio. Ah, capo, va bene. Ma tu sabbia qua. Ho detto, come sto arrivando io a te, Colombia? Santiago 6, radio 5, doppiato, il 100. Gianni, ma posso sto arrivando da te? Non lo sto guardando, pronto. Come te ne sono smettere di radio? Ma cosa passa? Assurdo. Sì, 9.25, quasi 9.30, la radio è fortissima. Tutti 9.25, ascolta Gianni, beh, you 5.9. E se ascolti 9.25, vieni a casa e guarda. Servo 9 radio 5, così ha detto Natale. Sì signore, a me Gianni mi arriva 9.10, invece Pierpaolo mi arriva 5.9. Io che sento molto lontano e Falchetto, cambio. A me lontano mi senti? A me lontano mi senti? Perché Falchetto è giù nella valle degli orti. Perché? Dimmi. Dice mi sento lontano. Sono lontano, vicino. Ma avete due antenne del cavolo e per forza ti ascolta lontano. Agi presenza, perché? Non si scende come se mi scendi noi, no? Non so, forse che sia QRM, che c'ha anche. Non lo sentiamo bene. Dipende da come uno riceve, capito l'hai, Antu? Dipende anche da come uno riceve. Allora, cosa ti volevo dire? Là, io ti ho sentito parecchie volte, a tutti ascolti, 9.25 tu. Boh, chi non si è bloccato in chimica, sai, su Smitter. Io a Pierpaolo ascolto 9 di segnale e 5 di radio, perfetto. 9 spaccato, A coso, a Pierpaolo. Prova tu come ti ascolto, a vedere, ti guardo bene. Tu e lui siete lo stesso segnale, Natali, ma lui è più vicino a casa di te. Ha bisogno di vedere come ti senti dentro, compreso dai. Io sto usando Lincoln con pochissimi watt, non sto usando l'altro, no. Ma arriva 9.25, non li posso dire che mi arriva 8, io dico quello che vedo. Per dire cose, Giuseppe mi arriva 9.10, non mi arriva 9.25, non mi hai sentito che tutti mi arrivano 9.25. io sento andare il controllo, non ho tangente 925, boh. A tutti così atti da prima. No, ho capito, io ti ascolto 910 qua, 910 radio 5. Con presidente Lincoln, Data lì. Può variare un po'. Dario. E dimmi far che? A me come segnale? Santiago 6, ti ascolto, Santiago 6, a volte 7, radio 5. La parola. Io qualchetto lo prendo Santiago 6 e radio 3, cambio. Vabbè, ma sto facendo un antennino del cavolo, qualchetto, capito? Lo ascolti basso per quello. Poi bisogna vedere che antenna c'hai tu, come lo stai ricevendo. Io ti ascolto 7 e radio 5 qua, Giuseppe. Ok, io sto uscendo sempre con la Storm 27, cambio. Meno 20, ma arriva Giuseppe. E vabbè, sono antennini del cavolo, di fortuna, antenne così, capito? Se tu avessi avuto magari un'antenna più grande, bisogna vedere nella posizione dove si contano tante cose, non è solo l'antenna, anche la posizione. Per esempio Gianni c'ha una bellissima posizione lì e c'ha anche l'antenna come si deve, è logico che ascolta tutti più alti. Io invece ho l'antenna bassa, anche se ho un'antenna buona, però la mia è bassa. E quindi giustamente non li ascolto con segnali alti, li ascolto con segnali più bassi, la gente. Perché dipende anche dalla posizione in cui uno è, se l'antenna è libera pure. Non è. Con quanti watt? La verità però, 10 watt. Sto dicendo 10 watt perché se no se lo alzo esco saturo e non posso voltare di più con questo qui. Massimo 15, ma l'ho abbassato, tanto non me ne sbatte niente, anche 5 watt, se lo metto a 5 watt va benissimo per la città. Ma io sto dicendo con 3 watt, con 3 watt io posso anche, dove c'è la cimenteria. Ehi, va bene, dai. Va bene, bene. Pierpa, aspetta, ma come ti arrivo io adesso? A me adesso mi stanno arrivando quasi nove. Adesso lo metto a tre volte come stavi dicendo tu. Sì, adesso sono tre ratti, vedi un po'? Sono tutti di nuovo. La stessa cosa, lo stesso segnale tuo, capito? Lo stesso segnale tuo, che tu fai così? Aspetta, papà, però io sto facendo il paragone con Gianni, che con Gianni non ha mai avuto il segnale, ma la pena di Gianni è lì davanti a me, e quindi è logico che è così il segnale, capito? Se mi danno 25 è giusto. Sì, perché tu sei più vicino, io addirittura per Gianni sono coperto, cavolo, io verso quella parte sono coperto, se io alzo poco poco l'antenna, che metto i radiali liberi lì dove c'è quella strada lì, lo vedi se arrivo lontano, io la parte di sorso lì ce l'ho coperta. Situazione ce l'ho un po' sotto controllo, dai, il rumore ha attenuato parecchio e niente, diciamo che per me va bene così, anche perché io non posso uscire più dei quattro fazzi che ho visti qui sull'apparecchio, cambio. Vabbè, basta, ne avanzano, io sto scendo più basso di te, di Bat, sto scendo, figurati un po', come ti arrivo io lì? Allora, Santiago Lope e Radio 5, cambio. E sto dicendo, adesso in questo momento mi misura 3 watt a me, 3, capito? Posso anche abbassare di più, aspetta che lo metta 1 watt al minimo. Allora. Sì, adesso sono a 1 watt. Se stai abbassando Santiago, di parecchio, Ma sono un watt, adesso sono un watt, neanche due, vabbè, forse sono, un watt adesso. La radio è buona, la di Santiago è passata. E ci credo con esempi, fa anche un watt, va bene, ci ascoltiamo lo stesso, non c'è bisogno di usare tanta potenza in città. Santiago, diciamo quasi 7, una radio di 4, cambio. Vedi bene che è abbassato, no? Sì, si è abbassato parecchio, però io dico questo, come dici tu giustamente non è importante sparare giù fatte, ma quanto riuscire a sentirti e passare un paio d'ore in tranquilla compagnia, cambio. Infatti, proprio quello. Poi dipende da uno dall'antenna che ha, tu mi stai ascoltando così, perché c'hai quell'attone 27 che è un bastone di scopa, là, già la conosco qual è. Eppure me la devo buscare una di quelle, così me la uso per antennino. Ma quelle ho sentito vanno bene anche in macchina, però è troppo grossa per piazzarla su una vettura, cambio. Ah, su una vettura no, vanno bene sui camper, quelle antenne lì, vanno bene, sono antenne di fortuna si chiamano. Io me la volevano proporre addirittura per la barra pesante, però ho preferito ho messo una PC6 e diciamo che mi trovo abbastanza bene, cambio. Poi ti pare che devi uscire con un'antenna così, è troppo vistosa, va? Beh, invece quella che hai messo si vede che non è mai macchina, quella sì. Sì, diciamo di sì, anche se in macchina, come ho detto già agli amici qui, che io per l'avventura sto usando una Midland con calamita e ti devo dire che mi trovo abbastanza bene e non pretendo grosse prestazioni, però riesco un po' a parlare con tutti, cambio. Sì, infatti. Vabbè dai signori, io con questo vi chiudo, vi saluto tutti. e me ne vado a letto. Ci sentiamo alle prossime, là, perché cazzo non sto riuscendo più a guardare. Più di quel tanto no, non riesco a guardare. Vabbè, vedremo nei prossimi giorni se guardo di più. Perché la notte dice che si fanno un sacco di DX. E vorrei modulare di notte a vedere se riesco a collegare qualche cosa. Vabbè là, ci sentiamo alle prossime. Salutoni a tutti e anche a quelli che ascoltano. Alfa 1 QRT, alle prossime. Paolo Carino, QRT, tutte le migliori alle prossime. Avanti, Gianni, per i saluti. Ciao Natali, buonanotte. Ciao Natali, buonanotte, ci ascoltiamo alle prossime live. Meno notte, mi sono fatto gli ex, l'ho collegato solo. Ciao, ciao, buonanotte. Buonanotte Natali, dai, ci risentiamo. Avanti Gianni, avanti, avanti. Io sono un orecchialicudi dell'altro martello. C'è l'auricolare delle cervicali, allora sto ascoltando a voi. E perché non se la preferisce ascoltarmi solo? No, no, no, no. Io sto ascoltando il vostro discorso, tanto qua non essere preoccupato. Sto ascoltando il vostro discorso e se entra qualcuno del link, vi ascolto anche il link. Buonasera Natalino, va bene. Avanti Giuseppe, avanti. Sì, grazie Pierpaolo, prendo io per chiedervi una cosa, ma per questo benedetto ricevitore dovendolo acquistare, lo danno liberamente oppure ci vuole, che ne so, qualche attestazione come abbiamo fatto? Il ricevitore si può usare liberamente, chiunque abbia la concessione adesso lo può usare liberamente, prima bisognava chiedere un permesso e cosa, ti mandavano un'attestata. Comunque se tu adesso vuoi lo stesso l'attestato, devi telefonare a Cagliari, adesso non mi ricordo se ci vuole la marca da Bolo o da ci vuole, e ti mandano l'attestato, te lo puoi incorniciare, fai l'ascolto, ti danno il numero e tutto qua. E tu ce l'hai il numero Gianni per poter... No, perché sai, sono anche interessato a questa storia qui. E diciamo che perlomeno per me è una bella cosa. Aspetta un secondo. Ok, dai, il numero è lo stesso che c'è nella per la concessione, è lo stesso numero. Tu gli dici che praticamente di voi... attestato di ricerca d'ascolto per le bande radioamatoriali e loro ti dicono che cosa devi fare. Se vuoi che ti spediscano l'attestato, certo in quale non c'è più bisogno, sì, ma io volevo l'attestato per attaccarlo, incorniciarlo là nella stazione. Ho capito Gianni. E gli chiedi cosa devi fare, ti dico tutto lo raccaglia. Metti fuoco a tutti, ma presentandomi qui alle poste centrali dove ho fatto la richiesta per questa, chiamiamola così, stazione pista, dai, e lì mi sapranno dire qualcosa. Ma ti conviene telefonare a Cagliari, perché queste cose si interessano a Cagliari, non sa se... Ah, ho capito Gianni, dai, e faccio così e vedo un pochino se riesco a averlo anch'io, perché sarei interessato a prenderlo anch'io un apparecchio come ce l'avete voi, cambio. La pagava. Ho capito. Va bene. Avanti Pierpaolo, cambio. Ah, si può? Guarda. Sì, già, dammi il controllo, come sta arrivando? Aspetta che mi alzo perché non vedo. Prova. Vai. Oh, come va? Santiago 3, Radio 2. Santiago 3. Cava. Radio Apparte, Santiago 7, Radio 3. Pure si è copiato. È sparito Bombone. Vada a fare adesso. Santiago 9, Radio 5. Papa, sono contento. È arrivato quasi 9. Oscillante, da 7 a 9. E infatti si conferma già, Siamo in preparazione, Gianni. E cosa ci avete? Un bazooka. Ma siamo in macchina, ma siete fuori o siete assassini? Assassini. sei a Carbonati, sono a casa, stiamo girando in macchina. Ma sei nuovo? Perché qua abbiamo aperto. Se ci siamo interfatti, che antenna stai usando? La magnetica, 5 tavoli. Che cos'è, che antenna è? Una ITEC. Ma stavi tu ancora le antenne le sta vedendo? Sì, ce l'hai ancora, se non è molto ce l'hai ancora. Cosa c'ha le antenne buone Ali? Sono della ITEC, so. Ma l'ITEC come antenne non ho mai, non ho mai avuto, boh. O l'Emo Sigma ha avuto, l'Emo Sigma, sempre così. Forse una Sirte l'ho avuta, una Sirte l'ho avuta. Gianni? Eh? Oh, sai da Bonaria a vedere come si prende lì. Sai da Bonaria, esatto. Riglia. Per dove siete? No, noi siamo all'ecologico, là. Ah, dove già sale il campo. Oh, che sale l'olia che ci sarà freddo. Sì, intanto non viene freddo, no. Uglia. E dove c'è? Eravamo a si mi ero cagando un freddo. Figurati lì su, uglia. Perché c'è il nero di intorno. Speriamo che nevi. Che sicuro? Anche se Natalino non vuole. Intanto non mi credo la quale è quella, ormai è in ferie. Natalino dice che la neve porta pericoli, disagi. Allora, te cerca di vederla dal punto di vista bello le cose. Mamma mia, sempre pessimista. Un giorno magari, tanto per vederla. Ma lo sai cos'è? Che sinceramente anch'io, lavorando, se non lavoriamo non guadagniamo, però sono nell'infortunio, quindi me ne ha fatti nulla. Può anche ne ficcare e fare quello che vuole. Fortunio? Eia, fino al 18. E cosa ti sei fatto? Distorsione al ginocchio. Mamma mia! Fatti fare subito la risonanza magnetica. Guarda, sono andato a pronto soccorso, siccome mi sono fatto male lavorando, vabbè. Sono andato a lavare nel capo dottore, siccome stavo lavorando lì. Mi si è fermato 3 giorni, mi ha detto, vado all'ortopedico, vedi un po' cosa ti dice. Per cui mi ha scritto, sospetta distorsione. Sono andato a... c'era la tipa, non c'era nessuno. La tipa, come sono entrato, proprio sbrigativa al massimo. Guardate dopo che mi era successo lì, ti sei gonfiato lì e io no? E lì, allora non c'è niente, mi dico non c'è niente. Che cazzo ti ha fatto il rischio? Perché io, a me mi si era gonfiato più di tanto, eppure io sono stato operato al menisco. Guarda che all'inizio loro pensavano che fossero solo le gavette, invece c'era anche il menisco. Con una lesione di terzo grado, ma non male mi ha fatto la risonanza magnetica, mi hanno trovato. Solo con la risonanza si vedono quelle cose. No, ma allora in pratica la... vabbè, poi dopo sono andato lì all'ortopedico, all'ospedale civile, sono andato dal mio dottore, mi ha detto, ti fa ancora male, fatti l'attacco, perché a me non è che mi fa tanto male, mi punge, a me è quello che mi tutta il strano, mi punge come secondo me, ce la allungo tutta, mi tira e mi punge. Ma io non ne sono ancora uscito, c'ho un legamento di menisco che ci avevo messi male, adesso il menisco l'ho operato al vero. Ma dopo tanto tempo loro mi dicevano che potevo trovare lavoro, poi mi ha fatto fare una risonanza e mi hanno trovato il terzo grado, perché io mi lamentavo sempre che faceva male la gamba, mi si bloccava, eccetera. E mi hanno trovato la lesione del terzo grado a menisco. Aspetta, l'avare non è oltre, ma c'è fortuna, c'è una faccia, non c'è una ciotto, rimano da qualche parte, una faccia, sono qualche cosa, una fisica, La puntura potrebbe essere anche la scheggiatura di qualche osso. Fatti fare quello che tento io, purtroppo, che ti stanno vedendo, mura? No! Aspetta, sono andato alla guardia medica, poi sono andato all'ospedale civile con l'impegnativa lì all'ultimo piano e mi stai scappando insomma dal pronto soccorso e niente. Ma questa qua neanche fogliato, neanche niente, no, ma neanche controllato. Certo, ti sei gonfiato io no? E allora non c'è niente, il ministro non si è rotto. Ma vado a girare. A me mi si è gonfiato all'inizio. Ma poi mi si stava sgonfiando e pure il menisco era lo stesso, quasi il terzo grado. Cosa ti volevo dire? Ma il fortuno non ti hanno chiamato? andato il 5 a sembrare il primo foglio, perché la guardia medica me ne ha dato solo 3 giorni. Poi sono andato stamattina perché il medico me ne ha dato 10 giorni. Certo, vedi un po' se ti passa, altrimenti ti facciamo fare qualcos'altro. E quindi stamattina sono andato, adesso mi timbrare quello lì e per vedere. Scusate un attimo, non si riesce a spiegare una storia, ma non funziona così. Ah, tu vai a pronto soccorso, ti fanno un foglio di infortunio sul lavoro. Ecco, questo è un foglio dell'infortunio, praticamente una parte va all'infortunio sul lavoro e una parte al datore di lavoro. Funziona così. Poi il secondo certificato te lo fa il tuo dottore, sempre facendo la stessa cosa. Una parte lo spedisce il dottore all'infortunio e una parte deve andare al tuo datore di lavoro. Fa sempre così. Poi ti mandano a chiamare dall'infortunio e ti visitano. Non sono razzista, però ci vuole anche questo. tante le tue, condivido in pieno quello che hai detto, perché oramai hanno passato ogni limite e anch'io non sono assolutamente razzista, a cambio. Papa, non è giusto queste cose, perché se tu addirittura loro avuto un pezzo di palla per terra, prendono e te ne tagliano il culo subito, per incassate, per leggi, loro assurde per buttare un pezzo di palla in terra. Invece loro vengono, fanno di tutto di più, vengono, spaccano il commercio, non si lavora più in Italia, non si lavora più tra cinesi e queste cose qua, non si lavora più. E ce dobbiamo stare anche zitti. Perché non ha sparato un senegalese, non ha fatto bene nemmeno chi ha sparato. Dipende cosa ha fatto il senegalese pure. Quello sicuramente era dei delinquenti, ha detto questo qua, sicuramente era dei delinquenti, era un caso a parte e ci sta ferendo tutto il paese, perché hanno sfasciato vetrine, capucciato macchine, hanno rimasto un po' di casini, hanno spaccato vetri, hanno picchiato gente. Gianni, hai sentito dopo quella notizia lì che hanno riconosciuto quello superatore seriale di Roma? Così, no, io ho visto che quelli con lo scooter che hanno messo la bomba al coso e li hanno beccati perché c'è la telecamera, li hanno visti scendere, beccati, oddio, hanno visto chi può essere una femmina come possono essere travestiti, quello che guidava aveva i tacchi, i capelli lunghi. Sì, ma dico, quello che ha superato tutte quelle donne lì a Roma, hai visto? Sono riusciti anche a fare l'identikit? No, non l'ho visto quello, perché poi mi ha chiamato mio figlio dopo che ho visto quel pezzo dello scooterone, che si è fermato per mettere la bomba. Mi ha chiamato mio figlio dentro che stava giocando con la PlayStation e sono andato a vedere cosa voleva. Era solo per farmi vedere che aveva sembrato un gioco, non era niente di... Vabbè, per lui sono cose importanti. Gianni, io ti voglio solo dire che l'identikit che è venuto fuori di un tipo, perché c'è una donna anche di una certa importanza che ha tentato di stuprare, e quello lì stranamente è senegalese, cambio Gianni. Ah, così? E vabbè, tutta questa comunità, anche gli albanesi si possono fare gli affari usti. Avanti, chi vi chiama? Dammi il controllo qua sulla Usino, come sta arrivato? Usino, sì. Ehi, al rifugio L'Aquila, prima di entrarci nel coso, a buona via sono là. 9-5. Ok, salgo su in fondo, là. Vediamo quanto arrivo. Lo spiazzo, se no. Ancora no, lì ci mancherebbe. E io da lì arrivo 9-10 a Sassari. Vabbè, Santiago sì, taglio 4, No. Ci sentiamo intanto. Ah, ci mancherebbe. Santiago 9, taglio 5. Non sono ancora salito ancora, sono nella mezzeria solo. In quel discensore e poi c'è la salita, dove ci sono i lampadari. Dove c'è l'asino? L'asino. Ehi, sta facendo il procedimento d'India. Occhio, che quell'asino lì è pericoloso. No, dobbiamo ancora salire. Siamo per salire al rifugio dell'Aquila, quindi ancora mancheranno 200 metri alla piazza di Bonaria. E come siete sulla piazza di Bonaria, andate praticamente appena più giù, non proprio sopra, ma appena più giù, perché il segnale si praticamente arriva meglio, basta un millimetro e arriva più forte, perché io ho provato. Verso Sassari o verso il paese? Verso Sassari, però c'è lo spiazzo, alla fine dello spiazzo, per andare verso Usio. Anzi, alla fine, quando finisce il muretto dello spiazzo. All'inizio, quindi, salendo all'inizio. All'inizio sulla sinistra. Guarda, adesso stiamo a rifugio dell'Aquila, perché dicevo. Io non sto guardando il segnale, quando mi fermate lo guardo, perché dall'altra letto di volo. Ok, cappato. Avete abbassato, mi ha detto, lo sa. Non so che ho abbassato. facendo sotto al punto di rifugio dell'Aquila. Adesso ancora salendo. Ti auguro. Sì. Solo. Dove sei arrivato? In piazza adesso. Provali. 1, 2, 3, vada a po'. Faccio la terzetta, capisci come mi stai contando qua, ogni figura. Baffa al culo, ogni figura. 9:15. Adesso arrivate qua. Ok, dai. 9:15 ci è arrivato, là, là. Già va bene, che affari che stai usando? Un buio, qui che lì c'è sempre la tela in mano, sempre lì. Cosa c'è la tela in mano? Sì, quello è stato lì, c'è gente sempre con la tela in mano. E basta che se la metto in culo, piano piano. Alessio. Ari. Come buono il controllo? Santiago 9 da V5. Hai controllato Alessio. Che 8 sei tu. Ho di nuovo questo fruscio che mi sta rompendo veramente le scatole sotto, e dire che avanti ieri era chiaro il segnale. Che vuoi che ti dica? Devo già andare parecchio. No, non è quello, non è sicuramente quello. Gava. Proviamo a vedere se domani migliora, ma sarà secondo me, potrebbe essere anche qualche rumore, qualche cosa che attacca, ma non lo so. Adesso te l'aumenti, è aumentato il rumore. Adesso sono di nuovo a di sottofondo, sono Santiago 5, radio quasi 3. Gava. Vabbè. Andava bene. Sì, il sintico, la sedanza fa riguardo. Scusate un attimo, andiamo a fare un paio di ex con un paio di cagliaritani sull'uno. Eh sì. Gava. Adesso troppo attende, ci sono io. Dopo il canne. Adesso si mettono d'accordo in greppa, per pigliare il baguardo e chiudere la giusta. Che sicuro? Thank you. A piacere non lo pubblico. Allora, già, e che mi ricordo davvero? Per guardoni. Grazie a Dio, ciao amici, oggi. Yeah. modulare, ma io dopo tornavo, io col baracchino e mi facevo anche la modulata, però non di notte, no. Saluto lì sopra via Marmella. Vicino a casa mia, così. Mi sembra che sia il collo, il cibo. Alla Pinetta di Patimati. Santo Brito, la Pietra in Bandimanna, sotto Scala di Ciocca, tutti i luoghi che hanno le mette i doppietti, sono gli Gianni. Prossima tappa a San Francesco, dove ci sono le doppietti al Belvedere. Oggi vi ammazza, no? Tu leggi, Pino. Oh, yeah. Voi non volete sotto casa, sai, che se no vi sparo. Grazie il buco per picciare la vetta, sei in indiana, il buco di questa la saletta. E rimio da lì, se col cannocchiale, buco per i vetti. Non c'è bisogno per essere sotto casa, già ce la facciamo nella San Francesco, dai. Andate a San Francesco. Ma tutti i luoghi di cioccolato, la salita non vede il San Daniele, boh. Io siamo abito delle quecce, e dello stamattina le quecce, noi ieri. Stamattina. Grazie, saluti al Belvedere, ma lo altro vedo lì nella panchina, ma è fatto. Beh, il Belvedere però, a Caprile forse non lo senti bene. Senti, sei a voglia. Oggi la tua macchina mia non la conosceva nessuno, ce la incontravano per caso, si vede che andava via a Sassari. Era più da 4 a 10 a 850, abbassata, e l'antenna sulla cappella. Ce l'ho avuta la 50, quella di mio socio, c'era 20.000 km quando malato, lui ha 20 anni, però io non so come si è fatto a trattare così poco questa macchina, tutta luce, c'era il Vennaio, ancora 10.000, lo sa. Ok, no, questa era di Bango, però la mia è uscita, e come mi guarda già mi sono messo a abbassare i mulloni dietro, a visitare la resa, la guardia, li avevo un po' lavorato, il motore camminava, che era un missile già, però non riparato, guarda che non ti dico, mi vogliamo vedere il bidone a freccia, il più di una volta. Non voleva nulla, la verità. Io sono andato anche a Nuoro con quella macchina, non ti riguardo, eravamo in 5, siamo andati a Nuoro con quella macchina lì. E faceva 130 e poi ne volava davanti, quel vizio lì c'era l'aveva, quel difetto, che volava davanti quando camminava. A me mi avevano detto che l'avevo passata io. Quello, però ho cambiato già, ce l'ho buttata via, ho pigliato il PC 104, avevo 1360 di cilindrata. E vabbè, no, 127 mai avuto, mai avuto. Non mi è mai piaciuta, già mi è piaciuta, non mi è mai piaciuta, poi da PC 104 sono passato. Mi ero comprato la Stanno Horizon, poi di quella mi ho comprato. Bella quella. La Golf mi ho comprato, non ne ho cambiato molte macchine, no. Poi della Golf ho preso la Golf 75, poi l'altra Golf e adesso ho questa Verde. Quella l'hai presa seconda mano, quella macchina squadrata, quella Golf? Mia seconda mano, di un tipo di Sassari era. E quelle sono un bel fumose le macchine, diciamo di effetto quello lì. Quella te dice, beh. E fanno un bel di fumo le Volvo, hanno quel difetto, un bel di fumo. Io tutte le Volvo che vedo, uniano volone. Ma non è a benzina già. A benzina? Ma a gas già. Benzina e gas. Adesso mi sto camminando a benzina, ogni tanto la devo usare perché la pompa necessita l'iniezione a farla funzionare. Infatti quando c'è un troppo che non la uso la benzina è fiacco il motore, adesso lo sto usando, già per il video di benzina. Ah, io no. La benzina va sino mattina, fino a quando vede la radio di 40 gradi. Dopo che la radio di 40 gradi va a gas automaticamente. E la mia benzina fa da casa un pezzo di quella strada nuova e poi entra a gas, ma un pezzo lo fa sempre ogni giorno. Ok, ma io ho avuto anche poco la macchina già. Io mi stavo andando a vedere che la prima cosa fosse di Chicago, Madonna, ma come sono sentito, 1800 ci avevo a 16 Chicago, me l'ho fatto via, perché mi pigliava cose in garanzia, perché avevo comprato questa, e mi ero trovato a venderla prima. Ma io lo stesso, già le vita c'è un lato, va molto bene come macchina, non ha problemi di nulla. Infatti me l'hanno detto a me, tu sei abituato già alle macchine sportive, mi ha detto, proprio a quale mi sono detto che mi tengono al verde, stasera quando comprare la legna già ho caricato il posto, va bene, bene, bene, anche prima delle feste, 4 quintali, ma col pelo. E poi mi serve per la strumentazione, capito? Se no avrei avuto una macchina anche sportiva, ma al giorno d'oggi già sono finite quelle cose, sono finite perché già la benzina alle stelle, adesso io qui mi ho messo proprio per fare già la benzina, se no di solito cammino a gas sempre. Franchetto, sei qui con noi? Che cosa se ne è andata? C'è per Paolo e c'è Arturo, ne va, ne va. Ma l'impianto di piede quanto costa? 1100. La resa di motore com'è? Buona, buona. La mia è buona, perlomeno, la macchina mia va bene. Diciamo che ha avuto un po' di problemi all'inizio, a quanto è stata a regolarlo bene, trovare la regolazione giusta, poi è andata come un bijou la macchina. Diciamo che a benzina, per dire, a velocità massima mi fa 180, a gas mi fa 160, ecco. Però più o meno la resa è quella. Già? Il Molise è tirandelli, anche a gas non può andare, deve andare, per essere a gas l'impianto deve essere a benzina. Poi la resa dei chilometri, con 25 euro ti fa un pieno, ti dico altro. Erpa. Stanno dicendo già aspetta un secondo, capito che sta parlando Pierpaolo, avanti Pierpaolo. Sì, ma è chiamato, dimmi. E riprendi, dai, siete fermi. Sì, sono fermi, dai, un attimo che io sto guardando una cosa. Va bene. Dillo tu quando si libera. Avanti. Chiappa. Comunque c'era Turbo Diesel, c'era K32. Ciao Antonio, se mi stai ascoltando, ti ascolto. Come Santiago di uno, dopo con la radio non ti capisco, se mi ascolti, ti saluto cordialmente con tutti i numeretti. Ascolta, già ti ho fatto una domanda. Il polmone ogni quanto glielo cambia la macchina? E ripeto, ce l'ho da poco, lui non l'ho mai cambiato. Diciamo che a me per il momento va bene, e poi bisogna vedere che gas ti rimedi, a muro se lo fa il gas, no? E a muro con gas, quando, per esempio, oggi non l'ho rifornito perché arriva lunedì, perché anche c'è stato con una macchina lì con il fornitore, ma non, era chiuso per tutti, infatti dovevo mettere gas giusto perché il rifornitore doveva la rifornire, che ci fa le pulire adesso. E niente, hanno aperto oggi, non c'è gas, non c'è, ho dovuto mettere benzina, vabbè. magari te lo prendo uno sporco, a volte arriva sporco da Cagliari, me lo stavo dicendo l'impianti sempre, che a Cagliari arrivano sempre rappresentanti che viaggiano qua, cosa, con la macchina bloccata. A me il polmone qua non mi ha fatto i chilometri che doveva fare, io non mi fornisco molte volte lì dopo le gallerie, diciamo, e anche la Montiuti, cosa date ho ricordato anche la Montiuti? E io lo faccio sempre la Montiuti, grazie. Una volta solo rifornito a muro, sto andando da Urbia, mi è capitato che era aperto e ho rifornito, ma solitamente a Urbia ci vado ai giorni di festa, quindi... capito. Scusa un attimino. Stanno chiamando, avanti. Stanno facendo staffa lì, le scusi. Ma ti ascoltiamo, ci ascoltiamo. Papà, dai, passa la dieci, dai, dobbiamo vedere se lo va a posto. Senti già, cos'è? Ma tu l'ho sentito mai? E basta, lo so. Lo stanno rientrando di nuovo. Questa cosa come si può ricerca di nuovo la capotta. Santiago Ugo, lo sento. Santiago Ugo. Sì, non c'è senso, guarda, di copiare Antonio già, è una cosa. Però la cosa che vuoi in Paramube ero salito sopra la punta del paese, lì prima di Aosi. E da lì il mio lungo ascolto già, mi sembra che mi cambio a Ussi a abitare. E vai a Ussi, ci sono anche la macelleria, la pescheria, tutto quanto, almeno. Ogni giorno ci siamo a qualcosa, ma c'è qualche pesce a proposito. Ogni giorno se io voglio comprare carne, anche lui mi ha aperto una carneghe già di macelleria, però no, molte volte il vado in banco non è come quello che già... e poi devo andare al market a comprare cose che qui non si possono comprare, sono alle stelle prese. Beh, ne approfittano, essendo in un paese ci hanno un monopolio, quindi ne approfitta. Ma mi posso andare già a pagare con un pelato di mezzo chilo più di un euro. Ma no, 5 euro di pelati, che meglio, da un chilo. Come on. Me, me, me, me. lasciando lo spazio perché c'è da qualcuno, è giusto sia così. Da 7 a 9 oscillante con questi bici sto spostando, sto raccontando la campanina, però si attacca a cellulare, sta candida che te la vede la volta, niente niente il lineare, tutto normale, però c'è stazionaria perché c'è la voce saturo, boh, mi sto spostando adesso, va bene, faccio una regione qua un casino, tutte palazzoni, capito? E se ti sentivo come se avessi un genere attaccato mal pilotato? No, no, niente, è una cosa pensata così al volo. Ti dico anche, cioè. Eia. Quello che odio io, mamma mia. Beh, siamo già anche la sorella, quindi devo perturbare anche la pressione, meglio niente. Che è tua sorella la mamma? Siamo saliti dalla sorella Giovanna, la magnetica. Ah, ho capito, era la macchina di mia sorella. Ah, no. Gabba. Giovanna c'è ancora l'apparato, ma non si rubiasti. Non sto scendo bene, boh. Se sono... la corona degli amici. Non si rubiasta più, Giovanna. Boh, dice che gli aveva mettere un dipolo, Antonello. Ma chi non ce l'ha l'antenna, no, adesso? Ma ci va due antenne, vedo che la gran prendo si pone, la manto va via. No, la manto faccio laggiù, una casa vecchia, la gran prendo si l'ha messa, lo stilo la gran prendo si l'ha messa a casa adesso. Lo fa, quando stavamo parlando. Già lo so. Lo stilo che? Ah, io avrei preso la manto, ma adesso che c'è la concessione di Tugante, bisogna dire a Fucci. E infatti, adesso la dovrebbe salire, poi boh. Gabba, hai visto dove c'era la piazzata? Nella carrera trancata. No, non ci sono sceso ancora. La casa vecchia no. E io già l'ho visto dove la piazzata. La piazzata, la ringhiera di una finestra. Che era al primo piano, al piano terra. Immagina, tipo, siamo 10. Non ti ci riusciva bene lui. Eppure usciva, te l'immagini. Bene, una parola grande. Usciva, c'è da rifugio, molte volte non si sentiva nemmeno. Non ti copio più di anni, siamo una zona d'ombra, diciamo. No, non mi copio più, la va. Che ricezione c'è con la tenna? È troppo QRM, c'è. Non siete, avanti, Pierpa. Perché ti vedo, lo fai apposta. Cosa vuoi fare apposta? Me l'hai beccato, eh. Abbasso. Ma tu grebbi, Antonio. Che bello. Sì, non ci riesci più a passare gli anni, no. Dove sono io, sì. Io lo credo. Sono capace. Sì, loro sono due spazi. Prova a vedere, Antonio, se ce la fai. Prova a vedere, guarda. Uno, due, tre. Cappuccini sono. Chi è che passa? Tu? È divertito, cara, passa lui. Rivendo tutto, rivendo tutto. Facci tutto, avvisami che sono sotto io, D'accordo, d'accordo, non ti preoccupare. Ma tu dove sei? Carbonara? No, oh, io sono dalla Cappuccini ora. Per qua, io fa. Tocca a te, tocca a te. Me lo fai apposta perché sai che stavo mangiando un arancio così, col sorcio in bocca. Non te l'hai tutto slurpito, io ho finito le arancia. Me le hanno portate per gli amici da coso. Me le hanno portate i mandarini per fare che erano dolci come mandarancia, ma buonissimi. da Riola. Che buoni ci sono. I mandarini a me piacciono più dei mandaranci, però le volaci dei dolci. I mandaranci sono in Italia, sono bambi, sono dolci ma un dolce bambi, invece il mandarino c'è proprio il sapore buono. E poi queste arance, tarocchi, cazzo e perpa di quelli sanguigni, dolci dolci, non ci vuole fare nemmeno lo zucchero negro. No, non sono accorto di passare tutta la notte qua, mi deve spiegare questo dolce bambo. C'è bambo e c'è il sapore. Dolce bambo. Io conosco bambo. Bambo, bambo lo sai cosa vuol dire? Che non ha sapore di nulla. Ah, così è. Noi siamo bambo, quello che è scimmio. E bambo. Bambo. Io cosa è pomato? Bambo. Tra la O e la U. Ho piazzato, non ho previsto, non siamo due. Io sono in zona Montemonte, vicino a Graziella. Caffa. Tu ancora lì vuoi, vero? Siamo otto, ma buona la radio. Caffa, caffa. Stiamo guardando lo smitter, quindi per quello, capito? Arrivavo sul caso basso lì, c'è qualche zona sì. Sono cappuccini, ma forte. Forte, di radio? Già va bene allora. L'importante è farsi sentire di radio. Una casa lì. Io sono già a casa, e lui che è in giro con la roba mia, quindi sta facendo bene comunque. Quell'internet a quanto canale. Con la magnetica, non pensavo che usciva così bene. Hai visto, adesso te lo rubo e non te lo più. Mio baracchino in giro. No Gianni, quello là no, domani mattina gli mettiamo la cappa, cappa, cappa. Ma cos'è un cappa? Cappa. Tanto lei cos'è? Con niente che è vuoi essere marino. Se ne vai. Per ascoltare. Per fare la ricerca di buco. Ma chiara, dimmi dove c'è Vittore. Ascolti tutto. Sì, vabbè, sai quando mi sono a me, già, di quei VHS, gli aggiorni galatti. Quei serate non li sono capitati. Non te come quella maniglia, non sarà che Natalino. Quando hai fatto qualche femmarini, portateli, no, non mi interessa niente. Anche i VHS, ti fate subito fuori, non mi interessa niente, no. Cosa devo fare? Atterrebbero dalla parte per non usarle. Tu? Me li faccio fuori. Almeno uno che è la parte, ma cosa mi faccio di qualche femmarina? Ma lui è una mini imbarcazione. Ma Tony, ma qua lo squarci c'è, sì. No, lì lo squarci non c'è. Interessante. È l'apparecchio quello modificato. Squarci non ce n'è purtroppo. Quello che ci vedi a casa, lo squarci c'è. Però con lui lo squarci non c'è. Capito, è un apparecchio che è stato modificato da un morto, non da un vivo, da un morto. Faccio la nella sua. Comunque c'è 34x34, io niente che ho usato, va bene. Questo 15 fatti c'è la tondi e faccio dovere. E allora l'antenna che non va, Se non prima la magnetica, cosa vuoi per tenere già? È la magnetica, non ti credi che sia. Della Intec, è piccolina, ma è grande, no? L'antenna basta comprare, alla GBC ce n'è, no, la Fusaro ce n'è una, e una la Magnum che va benissimo, costa 32 euro ma è una bella antenna. Poi c'è la Turbo 2001 del furgone, quindi buttata nel cartone, però che non mi porta la base. Cosa ti deve fare, la Turbo 2001 ti faceva anche a fuoco. È pesante, che macchina c'hai? Buonasera. Deve avere la mela grossa, io l'ho messa ma c'è il cappotto e c'è la barra di torsione. No, ma non me ne butterei mai, ma non si deve andare. Dipende dalla passione che uno ha. Quando uno è appassionato lo fa. Sì, ma una macchina nuova, di 2 anni, non è quello che buca la cappotta, però tu la tenere guarantina. E chi la mia casa la ci può andare, la carta va via. È la nuova nuova. Ho fatto, non ci avevo manco un anno, mi pare, quando l'ho bucata. Però il mio lavoro l'ho fatto fare da un tecnico, un professionista, che piazza impianti, audio, quelli che fanno le gare al quadrato, per intenderci. Ma è sempre antietetico, non mi piace avere questa bobina del cellulare. Forse al video, io non l'avrei mai fatto. Vabbè, ma questo è di punti di vista. Spero non sia Gico, che se non mi risponde come a quel mio amico che mi ha detto io vengo di Tunito, da poi tu non lo so. Non è fatto, a me non mi piace quel gruppo. Vabbè. Perché credi che metterla con la calamita fai meglio? Ti graffi tutta la capoca. No, ma questa la plastica sotto, quindi graffiare non la graffia. Come la plastica? La gomma, cioè, se è la plastica te la graffia sicuramente. Se è la gomma te la graffia lo stesso, perché io ce l'avevo la gomma e me la graffia lo stesso. Vai a toglierla, se di quelle basi per le ambrose, come vai a toglierla la rasca. Ma la di parchetto era in gomma. Questa qua gomma non era, però una... non so, una cosa cos'è. Ciao adesivo, ciao. No, non graffia niente, non ti preoccupare. Qua a parte quando fu la pilice del chilometro là. Vabbè, quella è piccola, devo sai che l'antenna è grossa. La valente è piccola, logico che quando passi oltre i 120 se ne parla un fumo. Andrebbe bene, mi dà che la testa c'è una capotta. Non puoi farlo purtroppo. C'è la KPL, quindi. Adesso come c'è accento? Sì, c'è accento. Adesso ti vedi più. No, fianco, accento ti vedi più, che lo sai per il vento. Tu vabbè già perso le città, quindi avrà più. Dica, questo scendo bene, questa sì che sta scendo bene. Noi possiamo mettere con l'antenna. Va bene, veramente bene. Saluta di Greco R. Sentita la voce. Avanzando. Avanti, avanti. Pierpa. Questa antenna è qua il popolo. Una miglia da lei. L'ho rubata l'altro giorno la macchina. Ma la mia non è certo. C'è l'antenna è. Se ti sei beccato vuol dire che l'ho rubata l'antenna, scusa. Io l'ho rubata la macchina. E tu mi rispondi, la mia non è certo. Dite che. E l'ho rubata l'antenna la macchina. Cazzo, non me lo vuoi dire, ho capito. Metto una intacca. Ah, ecco, passa. Per capire l'antenna era. E non intacca, quindi intacca non può essere, grigia. Può essere anche un intacca. Anche la che tempo può fare quello che vuoi, ma comunque non intacca cacca, fa la cacca. Tu puoi fare la intacca cacca e fa la cacca. Intacca te. Intacca te. Questa fa la cacca, no? Se provo le mattina te ne passo vicino, vedi? Se ne devo iniziare un po' di nella cacca. Ma stamattina ha visto mi avvento? No, quando è stamattina? Sì, sì, no, ieri sera. A chi? A noi stai cena? In via... Ma non sai pensare la via, non è via. Via... Va. Pi. Non mi fermo, va a Napoli. No, che sono alto. Se poi attaccate le barachine mi sono ricordato che eravate senza voce. No, ce l'abbiamo quel motocarro. Se la voce abbiamo la solitudine. Portate le porte. Già. Se tirate un burro di due che ti abbiamo visto, ti abbiamo suonato. Non me ne sono ricordato. Non me ne ricordo nemmeno che me ne avevo. Cada, cada, ti ho suonato, ho sentito il braccio. Cilindri? Non ha recensione con l'antenna, io sto lì da fuori. sono capo di bacio, siete più a loro, non è tanto. Non si è attaccato, sì. Esatto, la saturazione. Sì, è da poco fa. Ma sempre che saturazione, se metti in moto la macchina, il baracchino c'è bene, solo niente da fare. È un movimento. E mi dà un movimento a cose. Tu metti la sua affa, adesso. Quanto lei? 6 cilindri. 6 cilindri sono, già va bene. Se ti hanno per qua comunque. Cosa c'hai? La Seat nuova? No, quello prima. Quella con i cerchi della cartella. Non capisco. Cava guerra. No, da me. Ci va fatta. E ma la Seat? Oh, è quella di quella con è uscita male. La lasciata subito. Non ha tenuto manco due anni, e si è subito versato la linea di difettosa di finestrini difettosi, cioè si sono rotte le macchine di tutti i finestrini, un casino, guarnizioni non si ne va vita. Aspetta, va benissimo, ma ormai è l'altro problema, ho provato altre uguali, lo stesso periodo, anche il motore in vista. Avrò fatto la radio bene, e magari l'hai fatto la centralina. No, no, niente, giuro, niente, tutto il giorno. Caraga, andrà bene, andrà bene. Antonio, Antonio, tocca a te il microfono, prenditelo e stringilo. Ciao, non ho capito bene chi sia l'amico. È un autista di fatto, dai. Amico di Salvino, di Pomponi, eccetera, eccetera. Fabio, va. Ah, capo, ci siamo sentiti altre volte, ci siamo sentiti, Fabio. Ci siamo anche visti di persona, se tu ti ricordi bene. Sì, capo, ero un Gianni, ero una torre. E al bar dove c'è quella buona? Cazzo. E per lì vai, vai. No, era la prima volta che ci andavo. Mi fai girare, tu mi fai girare come fossi una bambola. Tempo mi sputi giù, mo mi sputi giù. Non ti accorgi quando sono tra le braccia di un ragazzo, no, non mi metterò più. Guarda che è contento che ha seminato, comperto e tutto, va, le cose crescere in bianco. Ciao, ecco la vita, Coppo. Dimmi, dimmi. Cosa è, dai? Avvermi cosa è, dai. Oh, ragazzo, no. Signor Sandier, lo chiamo. Lo chiami, l'ho fatto l'altra volta e non rispondeva al telefono. Non rispondeva, era libero, ma non rispondeva, ha detto che si era alzato in macchina. Sì, basta che la vicina attiva, già non ci perdiamo. Deve andare un venerdì sera o un sabato sera che c'è anche il karaoke. Dice che c'è festa e c'è... da divertirsi, dai. Fine settimana, ma è felice. Io non penso che siamo avuti qualche pizzeria di danno oggi anni a rovinarsi, quindi c'è poco da sbagliare. Quindi a quello che troviamo ci fermiamo, ce l'abbiamo, poi se non è quello, arriva all'altro. No, aspetta, si chiama la cantina o una cosa del genere. Ed è via Sassari. Però mi ha detto che si passava da sotto un ponticello, che hanno praticamente chiuso l'altra strada e si passa da lì. No, sì, quello sì, hanno chiuso la strada per Giolino, quindi o si arriva la Cantiere o nulla, mi sa. Tu prendi il muro e poi gira la prima traversa a destra, dovrebbe essere. O da Cargeghe o dall'albero industriale di Muros. Casino. Vabbè, adesso si tromperà. Sì, sono quattro vie lì, già a New York. O nessuno esatto, la Russia. Va. Se no prendiamo il tonto e ne scriviamo pizzeria e stare che no, ma già faccio l'altro, già la conosco. E io non è che quel paese di battito molto, andavo più a Proaghe quando ero ragazzo a ballare. Proaghe, Ussio. E vabbè, per l'acqua, bene o male, già non sono zone buie. Capaga. Tu sei da dove arrivi? Qualunque zona. Adesso sono a Porto Torres, però l'anno scorso facevo la zona lì, Florina, Scargeghe, Muros, Ossi, Issi, Uri e compagnia bella. Ma sei per giornali? No, io la mattina corriere normale. Cava. Davvero già ci incrociamo a Porto Torres qualche volta. Come? Già ci incrociamo allora a Porto Torres qualche volta quando rientri. Voi sempre lì? Solo io. E il mio furgone è difficile che non lo conosci. C'è le scritte. E dove? Ha le scritte a tutte le parti, le due lati, e dietro. Da l'orsa alla sisa. Beh, vabbè, già lo vedo. Un turbo devi. Turbo devi 10. Turbo devi. Ma a San Carlo? No, lì. Della Sisa, è là. Ah. Paghi. Ma in che orari? In che orari ci si? Io faccio dalle 8 e mezza, alle 1 e mezza, dalle 5 e mezza, alle 7 e mezza. Di solito. Magari. Non lo so. Non fisso, giro, io sono autista. E dico, fisso lì a Porto Torres. Beh sì, faccio Porto Torres, Plattamona. Non avevo più di tanto, faccio posti vicini. Plattamona, Sorso. Sì, noi là, qualche volta a Tiesi. Fisso lì. Ma là non stai guidando il furgone? Sì, però sono dentro Porto Torres, c'ho le cucine di giro per quello lì. Com'è il furgone? Allora, prima avevo un Ducato, adesso stavo usando un Opel Monfano. Ah, c'è un furgoncino là. Sì. Ah, magari. Ah vero, avanti a lì. Adesso non risponde. Vieni. Va bene, la radio vera chiude le trasmissioni e vi auguro una buona notte. E una buona giornata per domani, ce la riascoltiamo nei prossimi. Cambia. La radio ciao, per sentirti, dove buonanotte. Avanti. Fabio. Niente, saluta, ma io non lo copio più qua. Niente, siamo alla prossima. Saluti da Fabio. Mappa ricevuto, giuro. Prima che cambiasse, manco lo so, prima di chiudere. Prima che cambiasse, lo diciamo qua all'uno, c'era Capri 2 sul 21. È stato arrestato da solo e non è venuto qua. No, Capri 2 sul 21 era. Non ha sentito, eravamo qua. Ma no, Capri 2 è passato anche qua, dai. Si stava parlando anche con Alessio. Vabbè, niente, non mi era sembrato che un fosse passato. Vabbè, comunque sono sentito esaltato. Ciao, buonanotte a tutti di nuovo. Chiudo, no, ciao, buonanotte. Antonello, dica. Così, pari tu sì. No, io sono qua, non c'è problema per quello, lì ci mancherebbe. No, Antonello, ti abbiamo chiamato e non è diffuso. Siete un attimino fuori. Sentato subito, capito? Cala. Avanti Antonio, avanti. Come va? Tutto a posto? Dice bene. Affatti, tutti e due, là. Quindi sei un di ex, segarese. Io sono andato al ritmo. Sei vicino a casa tua, sei Fabio? Appa, già mi vado. Ok, da. Qui già arrivi. Senti, se la roba sei qua su. Grazie a Dio sei a posto. Dammi la roba basso, sono adesso. Sì, vabbè, comunque arrivi bene. Sentiamo roba, radio 5, la bomba. Ma lo grido. La Caterinari. Cosa? La Caterinari. Non ne ho, davvero. Ma proprio una voce è satura lì, come fate per i radio 5? Io la sento sato. Vabbè, va, non è un. Preso il baracchino, non siamo riusciti, sono andato a prendere l'antenna, abbiamo collegato e basta, no. Niente di che. Ah, sto scherzando. Ma comunque la radio a volte risulta satura. Siamo già 5 già, si preoccupare. No, beh, 5 già. Perché? Poco fa è uscito Saturno, lo dico adesso, ma poco fa è a Saturno. Antonio? Calma. Si conferma. Poco fa era sul di Saturno, era. No, ma comunque qui non è saltato per niente, la vita sì che non è saltata. È chiaro. Io immaginate, non le dico, poco fa è arrivato Santo. Poi a volte si magari che come passava il palazzo, non lo so. Ma l'abbondante, dove? Dimmi. Mi pongo l'abbondante, sono a 100 metri a casa tua. Dimmi che sei stato, ma sei chiaro? Adesso va bene. Vittorio, il problema sai cosa è che sei stato? Perché con la capace di sigari passi da 15 volt a 12 e quindi scende la tensione, automaticamente è cessato, ma perché l'apparecchio è modificato. Si capito già, scorso, quindi devo mettere la macchina sempre in moto, se vuoi uscire bene. Ma tu già lo sai che si attacca direttamente alla batteria, non te lo devo dire io. Se attacca l'attacco dei sigari, se è modificato, che poi mi sembra una bagianata, perché per poco attacco all'attacco dei sigari e non mi fa nessun difetto. Eppure è un apparecchio che va. Sì, ma una era magnetica, l'altra era attacco diretto all'antenna, scusami. A parte che l'apparecchio è quello che è, non è suo, se non può attaccare direttamente la batteria. Prima di tutto, poi lo può fare l'antenna con la te, ma 120 volumi convertori, anzi, l'antenna è 120, qui è salta, non c'è la buona massa, il discorso è quello. Sì, ma se l'attacco se lo fa, se ti deve trovare la poi che ti lo torna, basta di mettere due bananine, stacca le bananine e ti lo dà. Poi lui semplicemente quello che vuole, non è quello. quello il problema è fare l'impianto bene, perché di lì l'acido di sigari è sempre così, è un po' così sempre l'acido di sigari. Eppure non ha mai dato noia, vuol dire che funziona bene. Ma non interessa a Fabio fare una cosa stabile così, la vita secca, comunque. Provvisoriamente va bene così com'è, sta facendo una macchina sua con l'apparecchio degli altri e poi una casa sua con l'apparecchio suo, quindi è una cosa provvisoria. Non può avere, in fa un po' meglio dalla macchina sua, purtroppo, e quindi si deve adattare, e cos'è quello? Parte Rubis. Allora, ne dico una già, ne dico. Che c'ha parecchio, se tu hai lottato, non so se la, non so se lo spiegherai il discorso. Ciao, un coso, ciao, un... Ma ciao, un coso. Niente, io sono arrivato a casa, io li sento malissimo, non so se mi sentono. Quindi, niente, ma lasciate, ma lo cazzo, non mi sentono. Sentiamo un domani. Io qui ci siamo domani. Casa deve avere la voglia di entrare anche a lui, ma non può farlo, è un casino. Si è passato un cavo. E se lo troviamo il padrone, quello che fa, che lo fa passare in casa. Io stavo pensando che ci avesse la botola lì vicino, perché fa lasciare le chiavi, ma devi passare in casa sua, la sua. Vabbè, si chiede, non sarà così. Un minuto, proprio pareggiare per la calata, non si fa subito.